Ma che valore hanno i bei valori se te li spingi ma poi non li tiri fuori? Ma che valore hanno i bei valori? Come bambini, se voi non ritornerete come bambini, non entrerete mai nel regno dei cieli. E porgi l'altra guancia e non odiare i tuoi nemici, e tratta tutti quanti come fossero i tuoi amici. E vivi umile, regala sacrifici, non sono i soldi che vi rendono felici, fa che sia vero sempre quello che dici, ricorda le tue radici, aio. Ma che valore hanno i bei valori se te li spingi ma poi non li tiri fuori? Ma che valore hanno i bei valori se te li spingi ma poi non li tiri fuori? Perché le promesse e modi l'uomo fa poi li dimentica, non serve fa la predica se non c'è poi la pratica, non basta la morale, la parola, la parabola. Again, again. Preghere promesse fuori l'uomo fa poi li dimentica, non conta la preghiera, serve che c'è se sacrifica, non deve solamente andare a messa la domenica, andare a Roma, andare a Lourdes, andare a Fatima. Ma che valore hanno i bei valori se te li spingi ma poi non li tiri fuori? Ma che valore hanno i bei valori se te li spingi ma poi non li tiri fuori? E tutti gli ultimi questi saranno i primi, di tutti i poveri sarà il regno dei cieli, e tutti i ricchi poi verranno puniti, e sarà affitto e piangerà se ora ridi. Non avrai altro che lì fuori di me, ama il tuo prossimo come se fossi te. Nessun uomo mai un uomo deve uccidere, onore il padre, la madre. Yo, dimmi padre perché chi perdona me ha il potere di decidere, di giudicare, uccidere. Dimmi che cosa è stato fatto con la religione a milioni di persone nel nome del Signore. Io non discuto i bei valori che vengono fuori, ma non voglio più costori mascherati da signori che raccontano menzogne mascherati con paroloni che impediscono ai padroni chi giustifica gli invasori. Ma che valore hanno i bei valori se te li spingi ma poi non li tiri fuori? Ma che valore hanno i bei valori se te li spingi ma poi non li tiri fuori? Giro giro tondo, casca al mondo in un secondo, giudici di piombo sempre con il dito contro. Giro giro intorno ogni momento, notte e giorno, falso reverendo. Perché non si ribella se vuole salvare il mondo? A noi appare lindo e pinto, ma dentro è sporco. Perché non si ribella se vuole salvare il mondo? Appare lindo e pinto, ma dentro è porco. Io non mi spiego poi perché bisogna aver paura, non capisco la censura, se diversa è la cultura. Il mondo è bello e vario, il mondo è bello, io l'ho visto, non capisco e mi stupisco perché non vi piace Cristo. Ma che valore hanno i bei valori se te li spingi ma poi non li tiri fuori? Ma che valore hanno i bei valori se te li spingi ma poi non li tiri fuori?